Sì, buongiorno, è la radio? È la radio? È la radio, è la radio, è la radio, è la radio? È la radio, è la radio. E sì, volevo dirvi che sono molto contento di sentire la vostra trasmissione, e anche se ero abituato ad ascoltare chiaramente RDS 102, non mi ricordo che. L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, lunedì 11 maggio, il sole sorgeva alle 5:55 e tramontava alle 20:18. La luna sorgeva a mezzanotte 07 e tramontava alle 9:10. La sua illuminazione calante era dell'88%. Potevate piantare nell'orto e anche in vaso pomodori, zucchine, peperone, lattuga e fragole. L'altro ieri avvenne. Maggio 1857. Moti indiani. I ribelli indiani strappano Delhi ai britannici. 1860. Garibaldi sbarca a Marsala. 1912. Viene pubblicato il Manifesto della letteratura futurista. 1920. Eccidio ad Iglesias durante una protesta di minatori per la paga mancata. 1949. Il Siam cambia nome in Thailandia. 1994. La Guardia di Finanza esegue Hardware Rai, prima fase italiana del crackdown. 1997. Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi dell'IBM, sconfigge il campione di scacchi mondiale Garry Kasparov. 2016, l'Italia approva la legge sulle unioni civili. Moriva a causa di un tumore l'11 maggio 1981 all'età di 36 anni a Miami, Bob Marley. L'11 maggio 1860 Garibaldi e compagni sbarcano a Marsala. Fu uno dei momenti iniziali della spedizione dei Milli. Qualche giorno prima, la sera del 5 maggio, un gruppo di uomini, gente di mare, ma anche ingegneri provetti, guidati da Bixio e Garibaldi, a bordo dei vapori Piemonte e Lombardo, si diressero rocambolescamente verso la Sicilia. Con lo sbarco di Garibaldi al Marsala inizia l'invasione del sud e la sistematica colonizzazione della Sicilia. Uno sbarco come una partenza che sarà una sceneggiata caratterizzata da episodi che in termini militari si definiscono di intelligenza con il nemico. Basta rivisitare obiettivamente le cronache, dal finto furto nel porto di Genova delle navi Lombardo e Piemonte, pagate invece con una fideiussione, allo sbarco indisturbato delle camicie rosse, per rendersi conto anche dell'accordo sottobanco che Garibaldi prese con ufficiali della Marina Borbonica, che avrebbero dovuto e potuto ostacolarli e non lo fecero, se non in ritardo e a sbarco avvenuto. Garibaldi, nella sua breve sosta a Marsala, incontrandosi con il sindaco e i funzionari della città, non esitò a richiedere che gli venisse consegnato il contenuto delle casse comunali. Così iniziava la predatoria spedizione dei mille, tanto cara e tanto celebrata dai nostri risorgimentalisti. Del 1912, quando fu pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, un documento che segnò una svolta fondamentale nel movimento. Il futurismo fu un'avanguardia artistica e culturale che si diffuse in Italia durante il XX secolo. Fondato dal poeta Filippo Tommaso Marinetti, il movimento futurista si interessò a diverse discipline, spaziando dall'arte alla letteratura, alla scultura, all'architettura, fino a toccare la danza, la fotografia e il cinema. Per lungo tempo non ebbe niente a che fare con il fascismo. Diversi furono gli artisti futuristi contrari al regime e tante le loro pubblicazioni e opere fatte sparire dal regime. Collocati politicamente su posizioni vicine all'anarchismo e al bolscevismo, ai quali non mancarono però critiche anche da parte dello stesso Gramsci. L'intero programma dei futuristi si basava sul sentimento di contrarietà che questi nutrivano nei confronti della cultura dell'epoca, considerata troppo tradizionalista e appartenente a un passato ormai remoto. Velocità, dinamismo, frenato attivismo, azione violenta, erano questi i pilastri su cui si sarebbe fondato il nuovo sapere del futurismo. Dopo una serie di manifesti pubblicati precedentemente, la svolta vera e propria avviene con la pubblicazione del Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, con il quale gli avanguardisti introdussero un nuovo stile letterario che andava a colpire direttamente le basi di tutta la grammatica italiana. All'interno del manifesto furono messi per iscritto tutti i principi e le regole di questa nuova forma letteraria, la quale prevedeva la totale abolizione della punteggiatura degli avverbi, apostrofi e accenti, eliminando l'intero impianto concettuale su cui la letteratura si era basata da sempre. Era il 1920 e nella miniera di Monteponi, San Giovanni e Campo Pisano, nell'Iglesiente, si respirava aria di tensione tra gli operai e la direzione del complesso, dovuta alla decisione dei dirigenti di non pagare alcune ore utilizzate, si dice, dagli operai per seguire un comizio. Le condizioni, allora come oggi, erano davvero critiche e i salari bastavano a malapena per sopravvivere. Perciò, l'11 maggio, i minatori decisero di scioperare dalla miniera di Monteponi, con in prima fila, costretto dai scioperanti, il direttore. Partì un corteo di migliaia di minatori alla volta del comune di Iglesias, con la speranza di parlare con il sindaco in cerca di una soluzione. Il sottoprefetto, che già da mesi aveva ordinato ai carabinieri di utilizzare anche maniere drastiche per sedare le rivolte degli operai, intanto in qualità di protettore degli interessi dello Stato capitalista, organizzava le milizie in prossimità del comune. Quando il corteo, nel punto di raccoglimento, trovò lo sbarramento degli uomini della Guardia Reggia, in un attimo iniziarono gli scontri. Il direttore fu messo in salvo. 5 operai morirono sul colpo, 2 morirono a causa delle ferite riportate e molti altri rimasero colpiti. Si uccisero 7 operai per cercare di creare scompiglio nelle genti e nelle loro organizzazioni. Ai funerali degli uccisi parteciparono migliaia di persone. Finisce l'almanacco dell'altro ieri. Un saluto a tutte e tutti, soprattutto a coloro private e privati della loro libertà.